tempo, ha dato bel tempo la nuova, spero di uscire da domani, dai, mi coprirò bene, mi metterò la sciarpa e i guanti, non voglio rischiare, dai, ok. È meglio così, sono contento, sono messo, sento sopra, ho rimesso la direttiva, solo che non so manco se esce, non c'è manco un cane in cosa, in PMR. Hai messo la direttiva per il PMR? L'ho sistemata, l'ho messa a posto e l'ho pensata adesso. Solo che non c'è nessuno. Non posso chiedere conto di nulla. Se aspetti un minuto attacco l'antenna, ok? Ok, non c'è problema. Ecco, sto avvitando l'antenna, caro, è che questo è quadribanda, già lo sai, che fa tutto. Lo so, ti preoccupare. Allora, adesso commuto, ma il canale solito metto? Su 7, sì. Dammi il tempo. A Bisese? Grazie. Sto chiamando te, qui c'è poco dire, stavo facendo una prova. Si è rimesso la direttiva per il PMR. Sapeva cosa fare, sta facendo la prova in PMR. A Londra, partite c'erano, ho sentito in HF. Claudio, stavo ricevendo i 40 metri, c'erano un bel di questione in 40 metri, ma poi la pulizia anche della ricezione. Arrivavano tutti bene, anche attenuando il segnale arrivavano tutti bene. E in più attenuando il segnale pulito, non c'è manco corrente. Io sono tutto il giorno, 40 io. 40 in 20. C'è il contest, capito? Io la sarò qua. Già l'ho sentito. Ma l'altro chi era? Antonio, chi era? Sono qua. È apparso un fantasma, ho visto. Là, metto di metterci le mutande sopra la direttiva, si sa che ce le metta lui quando gli staccano la concessione. La concessione, vabbè, più che la concessione la fa cosa, ma comunque sia. Chi c'era? Non ho capito. Quello che ha risposto è un fantasma, ha detto, che non entra più, né qui, tanto meno di là. Non c'è da fare, hai capito? Spero che staccano o la luce o il pentagramma. Pentagramma. Bobo, Claudio, ma tu lo capisci a questo quando parla? No, sinceramente no, io ho riconosciuto la voce, sono in ascolto qua in HF, quindi non è che mi interessi più di tanto. Cosa volevo dire? Niente, vabbè. Comunque sempre l'ascolto, Antonio, a quello che so io, quindi. E a breve entrerà anche in radio e ti fa il buco del culetto, capito? Ce l'ha detto a me. Come entro in radio lo distruggo a Antonello Pomponi. Sicuro, mi fa un bigliotto, mi fa meglio, lo sai. Sì, continua. Come mi ha detto che quando entra se ne fa il buco poi? Ma non me l'ha fatto prima, lo fa adesso. Al limite, guarda, vedi. Se proprio c'è da pompigliare in pizzeria, se c'è la pizzeria buona, a chi consuma più la pizza? Ah, che non ti porta in pizzeria a te, cosa in pizzeria a te porta? A te come si mette a posto adesso che sta facendo dei lavori a casa, a te che ti distrugge. Ma adesso a me non sto scherzando. Lui va a prepararsi al tuo vicino perché me lo mangio, ha detto. Aspetta, sto 41, ve l'ha distrutto tutti e tre, da usino, e il fanno tutti e due. Lo sai che io ho 40 anni in radio, ancora non c'è riuscito nessuno a farmi, quindi fai la bravo, a me non mi provocare mai tu, né tu né nessuno, ma lasciatemi tranquillo e sereno che io sto molto bene così, molto serenamente, basta non mi rompete le palle, sono solo di distruggerti. Ma solo con la portante ti piego con l'antenna in due, capito me? Perciò a me mullettimi, arrangetevi, vedi chi ci deve biasi, impicchettivi. Te lo sto dicendo, ho visto stamattina al circo, mi ha detto ti fa schiattare, capito? Così almeno impari che non l'hai più chiamato la baracchina, tanto meno nel corso, ti fa scherzare, ho visto stamattina la vetta, tu dice che ti stava ambulando questi giorni, adesso sei per la stazione, gli ho detto stamattina, guarda, ti do tutto io, ti do la direttiva, ti do il corso, tutto io, ho detto, ma se stava ambulando che lo fa dire, ho detto. Mettiti a posto, ho detto, e lo sono ammuto, e anche in HF, gli ho detto. È sicuro proprio, guarda, sono preoccupatissimo. Di Gianni Bravo 2 che mi sovra modula in 27 in HF Gruppi. Io. Per carità, Marco Condor, dove siamo arrivati? Comunque a tua mamma fottiamo da fetiche e fibbiati. Io ti ripeto, vado bene come sono, ma mi basta che commuto dalla verticale della direttiva 3 dei metri, un giorno mi girate le palle e la lascio puntata sopra, così me ne uscite tutti da mezzo. Sì, ma facciamo le partite, però la Juve vabbè ha giocato sabato, quindi non me ne frega niente, anzi venerdì ha giocato, non so, forse venerdì. Niente, sono qua. Il computer all'RADR. Eia, Claudio, ti volevo far sentire questa modulazione. Questo è l'857 in AM col mic normale. Dopo la modifica copiata da un radioamatore. Capito? Quindi in AM adesso esce normale, con una radio normale però. Questo non potrà mai uscire come un Kenwood, però almeno così è capibile. Ma prima era allucinante, capito? Era allucinante. Vedi com'è, one, two, three, come la senti? Vai! Mi mia, Stefano. Come la sento? Microfono normale, va bene. Modulazione chiara, però normale. Sto qua. Sì, normale. Per esempio, se parlo così è troppo forte. Devo stare a 5 cm dal mic, dai. Ciao Stefano. Buonasera a tutti, e chi ci vuole male gli occhi ne escano. Giusto. Ciao, sono Cristina, saluto lì, mi sentite. Allora, stamattina sono andato a... me l'ha detto Gianni, che ti ha sentito, ho detto guarda, niente, ho detto guarda, così fai schettare a Claudio, e detto agli altri, ho detto. Guarda, ti regalo, ho detto, niente meglio, ho detto, basta che vieni. Ha fatto, adesso vediamo un po' quanto è, ma... E tu dai, vieni. E il giudice è mezzo convinto, forse vieni, almeno... E tu sistemati tutto, almeno... E tu facciamo le gare e torna. Ti hai capito che già mi svolgevo, sì, mi usino. Ci ho visto un mese fa la Marinetta che sta facendo la spola per mettere a posto i frighi lì dove sono io all'albergo, e il prossimo mese iniziano ad aprire, capito? Il Pasqua è tutto aperto lì, perciò ci siamo già visti. L'ho aperto il cancello io, la sbarra io perché non c'aveva la chiave. Già ci siamo visti, abbiamo già parlato, purtroppo lui poco tempo c'ha nel periodo estivo, tu lo sai, e poi non è che la già sei assai più gana. Però senti, Gianni, già fa piacere, ottima posizione, fare due chiacchiere, due prove, ma non ha niente a che fare con altre cose, dai. Vabbè, per fare quello che hai detto tu, ci vuole altro nessun tetto. Io ne ho speso anche troppi quattrini e tu non usate, stamattina le usate Stefano. Ho collegato a, vabbè, dolorosamente, dai, mi ha mandato un messaggio, detto Antonio in 40, GXO. E poi girando in fase di rientro poi di copertura un Zulu Zulu 2 Sierra, un brasiliano in 40, non ce l'avevo Brasile qua, che stavo rientrando con l'antenna e ho sentito questo brasiliano, che basta, non ho fatto altro, proprio 19-02-2017 Antonio, e questo Zulu Zulu 2 Sierra, e basta, che è anche abbastanza lontano, sono circa 8000 km. Va bene, tu come hai chiuso, stai a posto? Sì, sono... Io ho fatto in 15 metri ieri, in 15 metri, sono spedizioni, quelle con lo Zulu, perché era Brasile e Papa Alfa. No, Brasile. No, Papa Yankee, scusa. Sì, infatti in sì, spedizione, al piano stamattina. Ce n'era anche un altro. Però proprio ti ripeto, mi fa sentito questo chiamare. L'FL2100, perché con Antonio non c'era bisogno di Haiti, è proprio a intorno ai 220 gradi, quasi 215 gradi, una cosa del genere. Mi ha risposto subito, però sì, infatti ho letto che era una spedizione. No, e basta, non ho fatto altro, ero tutta la mattina ascoltando. Il computer in pratica su quell'operazione che abbiamo fatto stamattina assieme è tornato alla normalità, adesso mi ha dato anche la B-spot e praticamente dopo mi avevi detto tu che prima non si vedeva, evidentemente c'era la pagina che non era completa, poi dopo me l'ha data completa, infatti mi dà cose, shual e tutte cose. Ho mandato anche un messaggio di ringraziamento ad Antonio per il collegamento, visto che la B-spot me l'ha fatto passare, ok? Riprendi e poi fai girare, dai. Sì, perfetto. Sì, no, io ho chiuso il mio operato per quanto riguarda quel diploma, perché ormai stiamo, la vacanza sta calando, quindi era così. Ma ho chiuso bene. Ho collegato anche Città del Vaticano ieri in 40 metri, pensa tu, roba che... Ma vabbè, come sono spostato un po' sui 20 metri, chiedo scusa agli amici un attimino e poi concludo e rilancio il microfono. Ero sui 20 adesso, ho fatto un giretto, un po' di stazioni ci sono e quindi ho fatto qualche chiamata. Tutto qua, tema Coconno con la buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Prego Marco Conno. Prego Marco Ratapignara d'ora in poi. Qui c'è Pomponio con Antonio sull'1 PMR, si stanno salutando, dai. Bene, bene, Claudio, dopo con calma, con molta calma, ti faccio sentire in banda laterale, mi dirai poi se c'è quel soffietto, problemini che avevo riscontrato, ma forse era freddo l'apparato. Ok, lo faremo dopo, dai. Ebbene, non mi intendi? Cos'è? Io sto parlando al muro. No, sto ascoltando quel deficiente che sta parlando in PMR. C'ha una voce che sembra un morto. Ma chi, l'uno o l'altro? Ah, poi quando parla non si capisce un cacchio. In quella lì non hai sentito niente, vero? Nulla, niente. Niente. C'è solo il 275H, non ho sentito niente, poi mi sono rotto le scatole, ho abbassato il volume, mi sono dedicato un po' ad altre cose, soprattutto a continuare a riassettare il computer, che è quello che mi interessava di più. Ti volevo dire quello che nell'altro giorno, San Marino sta facendo Toni, Coloni è quello che trasmette dalla Repubblica di San Marino, capito? Va bene, no, non ho fatto niente, te ho lasciato stare tutto com'era. Ah, guarda. Taponato, più tardi, con calma, facciamo le prove in banda laterale. Così mi dici se c'è o no questo soffio. Va bene, non c'è problema. Così questo baracchino ce lo togliamo dalle palle finalmente. Perché, no, forse il bulldozer gli piaceva, però non so quanto può spendere, capito? Dipende quanto vuole e quanto può spendere lui anche. Marco, ripeto che ho visto io quella radio, non la puoi dare più di 500 euro. Scusate, devo chiudere. Ciao a te, un abbraccio, dai, grazie degli aggiornamenti, grazie di tutto, ci aggiorniamo telefonicamente, ok? Se sei ancora a Sassari tutta la settimana, fate sentire che intanto sono a casa io. Va bene, intanto il giorno entro più tardi, sto scendendo un attimino urgente, vengo subito. Ciao. E io ciao Steda. Sì, sì, Claudio, quello è il prezzo. Pensa che quando l'avevo preso, poi mi ero reso conto della follia che avevo fatta. Dopo un mese, tenuto in scatola, lo volevo rivendere. E uno mi voleva dare 500 euro, 550, di un mese, con scontrino, garanzia e tutto. Ho detto, ma stiamo scherzando. Piuttosto me lo porto nella tomba. Sì, Massimiliano mi ha detto un prezzo del genere, tipo 500, poi se gli devo levare qualcosa glielo levo, capito? Dipende quanto gli piace quando lo vede dal vero. Io va bene, poi vediamo, comunque te l'ho detto io, adesso usalo, non lo tenere fermo, usalo, poi io adesso mi informo se c'è qualcuno che ha necessità, capito? Lo rimpiazziamo, non ti preoccupare, già non ti rimane in groppa, dai. È meglio che ti prendi i soldi e ti prendi qualcosa che ti interessa più di quello. Eia. Ascolta, quesito per te. Se uno non paga l'assicurazione per l'assicurazione semestrale, no? Se uno non la paga per 5 mesi, no? Poi per quell'ultimo mese che la vuole usare, gliela fanno pagare intera o gli fanno pagare solo il mese? Niente ne sai. Allora, l'assicurazione della moto è in questi termini. Se in scadenza di contratto non hai bisogno di niente, non la paghi e finisce lì. Se non è in scadenza di contratto, la devi pagare e puoi sospendere, altrimenti te la mettono a ruolo, nel senso che te la fanno pagare con il recupero crediti e occhio. Oh, non lo so, guarda. No, il contratto è stato fatto quando? No, non me ne ricordo, Claudio. Cioè a me manca scade il 5 aprile dovrebbe scadere, no? Se io la pago adesso a marzo, fine febbraio, inizio marzo, mi fanno pagare solo un mese, no, non mi faranno pagare 200 euro per un mese solo, no? Perché poi c'è l'altra rata da pagare. No, puoi pagare anticipatamente l'assicurazione, Marco. L'assicurazione va a scadenza. Se scade il 20 aprile devi pagare il 20 aprile, perché loro non possono fare un'altra, mettere in a ruolo o una polizza che ancora non è scaduta, ok? Quindi devi aspettare la scadenza. Se scade il 20 aprile, dico un giorno, hai 15 giorni di tempo per pagarla. Dopo i 15 giorni la scadenza è scaduta totalmente. Se però nella scadenza dei 15 giorni, quindi della prova che c'è dei 15 giorni, è in scadenza di contratto, non succede niente, non ne paghi e nessuno ti cerca. Se invece non è in scadenza di contratto, che scade al prossimo semestre il contratto, la devi pagare per forza, non la puoi bloccare, la devi pagare. Così è, vediamo adesso, dai. Vediamo, che palle queste assicurazioni, sono delle truffe legalizzate queste assicurazioni, e poi non ti favoriscono mai, anche se sei cliente loro, non ti favoriscono in nessun modo, capito? Basta che paghi e a loro non ne frega niente. Ma i contratti che sono così, non è che loro possono agevolare il cliente, perché è cliente, assolutamente, io ho due moto e due macchine assicurate con la Vittoria Assicurazioni, quindi penso che sia un buon cliente, però vedi una ha la piccola che adesso non si usa, si usa più nel periodo estivo, vento città, il cinquantino l'ho bloccato, lo riprendo a giugno, però lo posso bloccare perché la scadenza appunto era semestrale, però con scadenza di contratto, capito? Tutto lì. Mentre gli altri ce le ho tutte assicurate. E Marco, purtroppo funziona così, le assicurazioni oggi si sono molto molto aggiornate, perché le truffe che c'erano erano una cosa pazzesca, e quindi chiaramente devi essere sempre all'avanguardia e soprattutto attento a quello che fai, perché se sbagli paghi, se ti trovano certa assicurazione 10 giorni, c'è una multa salatissima, ritiro del mezzo, un casino, cioè punti dalla patente, capito? E poi se risulti neopatentato sono cavoli tuoi, capito? Quindi bisogna stare molto molto con gli occhi aperti. No, io l'ho lasciata ferma da un bel po', cioè a ottobre non avevamo i soldi per pagarla, che abbiamo avuto quei lavori condominiali, io non l'ho pagata e la macchina è rimasta ferma, capito? Adesso la prossima scadenza è, la prossima rata è ad aprile. A me interesserebbe metterla già in moto adesso, però appena paghiamo, vediamo un po' cosa ci dicono. E poi c'è un casino perché l'assicurazione non è la stessa, ha cambiato gestione, quindi magari la vedono in modo diverso loro, capito? Bisogna stare attenti. Insomma, vado e chiedo cosa devo pagare, come lo devo pagare. Se mi giro le palle vado anche da un altro. Ma dove che si è assicurato? Allora, adesso ho un altro AMA, io non ricordo, in via, non me lo ricordo, via Tempio forse, in fondo, dopo via Le Dante. In via Tempio, in fondo, dopo via Le Dante. Non so che assicurazione c'è, io ho la Vittoria in via Umiglioni, mi sono sempre trovato bene, da quando avevano una subagenzia, quindi adesso è l'agenzia generale della provincia, sono cresciuti tanto e fanno degli ultimi prezzi, mi trovo benissimo, non ho mai rotto le scatole, quindi non... però anche con le moto penso che siano tra loro e la Liguria Assicurazioni le più competitive a Sassi, poi bisogna vedere. Va bene, va bene. Quel porco, Antone, hai finito con le scatole, Antonio? Eia, ho finito, aspetta che mi sto medicando. Perché cos'era? Ti hai tirato un martello a testa o Simone te l'ha tirato? No, mi sono preso la crema. Aspetta, due minuti. Mi sto medicando, pensavo avessi preso colpi. Capito? Va bene, va bene. Comunque c'è, si è messo freschetto il Mafio rispetto a ieri sera. Aspetta, ieri sera si è messo freschetto. Non entro in pure di maestro Lotto, ma mi sembra di sì. Vedo qualcosa a muoversi, forse nell'arco della serata. Anche perché mi pare che abbia dato tempo non buono tra domani e dopodomani, così era. Oh, la nuova dice domani sole pieno, come oggi, la nuova Sardegna, però bisogna guardare anche un meteo nazionale, capito? E fare comparare vari meteo, dai, perché uno non può essere così preciso, dai. Beh, certo, non può essere preciso, no. Comunque. Va bene, dai. Non si fa questa bella giornata, vero? La mattina c'è un paio di impegni, andare al medico, fare altre cose. Però sto dicendo, se nel caso fa bella giornata, almeno mi posso spostare a fare qualche commissione con la moto. Ega. E adesso vediamo, dai. Adesso vado lì e chiedo. Perché anche se la moto era ferma, capace te la facciamo pagare, l'assicurazione. Sempre una rottura di balle questa assicurazione, vabbè, poi si vedrà. Se mi girano anche le balle ci butto molto più. La vendo, portatevela via e pazienza. Ma fammi capire, c'è tanto una paio di cose, tu avevi la moto assicurata però non la stavi usando, adesso ti scade ad aprile, così è? Sì, cioè questo mese che io l'ho lasciata ferma in garage, me lo faranno pagare oltre la nuova rata. Ma se tu c'hai, quando è che l'hai fatta? È semestrale, quindi avrei fatto gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, quindi scade a giugno, oppure l'hai fatta a novembre, quello cacchio l'hai fatta questa assicurata? Ce la usai tu? Te l'ho detto prima, dopo 7 ottobre, ottobre e aprile, quindi fa ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e poi sta ad aprile, capito? Ad aprile la pagherai, a scadenza ad aprile, il 20 di aprile, andrai e pagherai l'assicurazione per 6 mesi, non per un mese, no, per 6 mesi. Tu puoi assicurare la moto, ok, metterla in garage, allora non ne frega niente, non usarla, ok, e riprenderla a un mese dalla scadenza, allora non ne frega niente. Tu l'assicurazione devi pagarla da scadenza a scadenza, punto. E allora mi conviene non prenderla ancora. Perché a me serviva già adesso, però mica pago 200 euro per usarla un mese, no, adesso, quando arriva la prossima scadenza. Qui immagino mi facciano usare solo il periodo, un mese che la uso, capito, prima della prossima scadenza. Non saranno così cani, no? Ma cosa gliene fai a loro e cosa fai tu? Ma Marco, ma fuori testa, sì, mi stai meravigliando stasera, eh? Oh. Se tu c'hai la moto, l'hai assicurata, da ottobre ad aprile, tu la puoi usare quando cavolo ti piace, la puoi prendere, ti serve adesso, la prendi perché è in copertura, ci siamo a febbraio ad aprile, c'hai 2 mesi di tempo, ok? E quindi la moto la puoi usare perché è coperta di assicurazione. Al 20 aprile, quando ti scade l'assicurazione, hai 15 giorni di tempo per pagarla, quindi andrai al aprile, al primo maggio è festa, però la moto già non la puoi usare più perché è scoperta di assicurazione, ma adesso tu la moto la puoi usare perché l'assicurazione c'è. Cosa stai dicendo? Oia Claudio, oia. Io ti ho detto che a ottobre non l'ho pagata a causa penuria di soldi, l'ho lasciata ferma, però siccome i soldi mi saranno, voglio sapere se posso pagare un mese solo e usarla per un mese, capito? Fanno la differenza da, anziché 6 mesi, 200 euro un mese, non so se me lo fanno, certo non mi faranno pagare tutto assieme, no? 200 euro interi, no? No, non ti avevo capito, Marco, assolutamente, quindi tu non hai pagato la semestralità, no, al 20 aprile, io continuo sempre a dire il 20 per dare una data, al 20 aprile tu devi pagare tutta la semestralità, non stai scherzando, adesso non la puoi usare la moto perché non è assicurata, e sino al 20 aprile, quando non va in la pulita in copertura, tu devi pagare tutto il semestre, non esiste un mese, magari farebbero tutti così. Ehi, allora aspetto l'aprile, dai, se no non voglio spostare, aspetto l'aprile. A me ti conviene aspettare tutto il semestre, visto che entra la moneta e si è a posto, capito? Non stai lì a romperti le scatole, ok? Se non l'hai pagata, capito? Mi è sembrato di sentire qualcuno fuori frequenza sul canale che faceva ola ola, può essere? No, io non ho sentito niente. O di splatter mio, o di splatter magari. Splatterato. Mi Antonio, mi. Allora è lui che si deve centrare in frequenza. Chi è? Antonio Grote, ma sta uscendo tutto, sta uscendo addome. Sì, ma sembra forte a me, sembra che c'hai mezzo watt che metti 100 di colpo. Controlla che c'è qualcosa che non va. Antonio Grote, vai a Cogiu, ti fido a cercare i camboni. Ah, ti metti a posto. Dove c'è andata a finire? Dove stai parlando? Dalla grotta? Sembrava senza alimentatore, cioè, senza alimentatore. Ma per le barattine non si può. Dai, 9.20 se ne va a zero, 9.20 a zero. Se vuoi di sicuro da lei, non tutto a fruscio, sì, tu. Ah, vero, pure adesso va bene. Non lo so. Ah, meno male, ok. Vabbè, io non sento altro, non sento nessuno. Capito, Marco? Così è la situazione, così deve essere, basta. La semestralità c'è quello da fare, boh. Eppure, Claudio, lo sai che io un ricordo, forse con una vecchia assicurazione mi avevano fatto pagare solo il rimanente. Ce l'avevo ferma per mancanza di soldi, una vecchia assicurazione, no? E poi era andato a pagare e quello mi ha detto, no, lei ce l'aveva ferma, non l'ha usata, dice paga solo la differenza, cioè il residuo fino alla prossima rata paga. Però qui lo dico, qui lo nego, può darsi che siano cambiate le regole, preferisco prima chiedere e poi ti faccio sapere, dai. E non lo so se praticamente è fattibile una cosa del genere, però informati, vedi un po', informati, perché io ti ripeto, non mi è mai successa una cosa del genere. No, magari sono quelle assicurazioni che non gliene fotte niente e che per mantenere il cliente fanno queste agevolazioni. Ben venga, fammi sapere qual è questa assicurazione, così faccio anch'io così, perché io ce l'ho una semestrale e una annuale la moto, quindi non mi ho mai creato questo problema, capito? Mi sono mai creato questo problema. Vedi un po', no, avanti Antonio. Dove sei tu? Dimmelo. Dani, vieni qua, fa la palazzi, capito? Vieni, e fuggi. Ma chi? Mio nipote è qui a casa che giocando col cane. Sì, già lo credo, come ti ha visto è fuggito. Non accetta quello che mi ha visto fuggito, poverino, è giocato col cane. C'è un bandante mi qua, non hai capito niente. No, non la foto, faccio vedere che Daniele, nemmeno se palletto il cane vicino, vuoi a toccarlo. Se tu che ti ammazza, c'è di musica più che altro. Dici ciao. Daniele, sì, ciao. Ma te, per due bici. È il micropanico, ciao. Non risponde al microfono. Ma non lo vedi che stai fischiando, Antonei? Ogni tanto... E adesso fischiando sto? Noni, però non è sicura la connessione. Intanto comincia a fischiare, boh. Allora, Clau. Allora, io ero alla Carige in via Tempio. Cioè, tu sali in via Le Dante. Giri a destra per via Tempio, fai un centinaio di metri, no? Forse qualcosa in più. Lì a destra c'era la Carige, che adesso ha cambiato nome, c'è gente diversa, capito? Hanno fatto un cambio di mano. Purtroppo per questo cambio di mano io adesso non so come siano le regole, se sono più, se mi aumentano anche il premio, cosa ne sai, visto che non ho pagato per tutto un semestre. Per tutto il semestre, non ho capito. Non mi informa, avanti prego. Guarda un po', buonasera a tutti. Guarda un po' come sto uscendo. Molto male, molto male. Hai queste B da 9 a 9, 10, è tutto gracchiante. Tutto scorrecchiato, mi sono dire. No, ma è, non so se manca alimentazione, manca qualcosa, Ma l'antenna che? L'antenna grande c'hai, o l'antenna della macchina? No, l'antenna grande, ma sono problemi che sto risolvendo. Era ferma da un po', era l'acqua. Ma deve essere molto piena l'acqua con l'antenna tu. È impressionante quel CB che hai, è proprio sta gracchiando, tutto gracchiare. Sì, ciao Anto, confermo, è completamente distorta la radio, ma dubito dove sia l'antenna. Che l'antenna è radio o non è radio, ma quello sta di apparato, vabbè, controlla, dai. Non ho copiato, eia. Vabbè, riprendi, dai, Claudio. Adesso io ho fischiato. No, adesso no. Però ci sono momenti che si sente pi pi pi pi. Fischi, inneschi, non lo so. Sto usando adesso il coso, il 9, quindi non penso che sta fischiando. No, adesso non fischia. Nel frattempo, Claudio, vuoi fare la prova? Oggi Claudio non ha gana, dai. Guarda un attimino, vi stavo chiedendo, Marco, se quando sto, cioè quando non parlo, è importante Bianca, se il segnale rimane stabile. Adesso il segnale ce l'hai, però si gracchia anche il radio, Anto. Esatto, piante gracchia. Sì, adesso sì. Signore, c'è adesso, è stabile, però grazie del radio. E guarda un attimino adesso. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uguale, Anto. Tutto gracchiante, tutto gracchiante. Come sei, sempre in via Budapest? No, negativo, via Rockefeller. C'è via Rockefeller, sì, ho capito. Anche segnale che non è quello che avevi prima. 9.10 qua, 9.15. Aspetta, il sistema. Il sistema, tu. Secondo me stai usando, ma rischi di fare danno alla radio. O c'è la pipa. Sì, Marco, scusa, io ho famiglia, no? Io sono come te, lì seduto, col plaid sopra le cosce, a grattarti le balle. Io ho famiglia, se mi chiamano è volontà, cosa stai dicendo? Quando vogliamo fare la prova in SSB. Quando ti piace la puoi fare la prova con me in SSB. Io non ne ho problemi, capito? Io mi commuto immediatamente, ti do un segnale e ti seguo perfettamente con l'ICOM, con 756 Pro 2, e così sei perfetto, anziché seguirti col 440, guarda, ti do proprio la perfezione, con l'esatto rispetto, con tutto, con rumorini e rumoracci, non ho problemi, intanto lì c'è l'antenna 10, 15 e 20, quindi non faccio altro che montare sulla direttiva e vado con la direttiva alle 10. Vuoi andare anche adesso? Vai. Ma aspettiamo, se Antonio vuole qualche altro controllo, non so. No, a me basta che usi la verticale, usa la verticale, non usare direttive che non servono a noi, usa la verticale, con lo stesso apparato. Vai. Uniform, si era bravo? Vabbè, vedi tu, sei 10 metri.